America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Moody's reviews are part of its reassessment of the health of the global banking industry. The move can sharply raise the funding costs of the affected institutions. The downgrades will now increase scrutiny from markets. Moody's ha colpito ancora l'agenzia per la valutazione del credito ieri a chiusura dei mercati. Ha annunciato un downgrading per 28 banche spagnole, ha tagliato tra 1 e 3 livelli nella valutazione del credito di queste banche. Beh, è una notizia che era in qualche modo attesa, ma che capita in un momento, devo dire, non esattamente propizio. Sappiamo che i mercati sono deboli, la psicologia degli investitori è fragile, si attende questa riunione dell'Eurogruppo, le borse europee, beh, abbiamo visto cosa hanno fatto ieri. Beh, le borse europee, vi dicevo, sono andate molto male. In Europa si arrivava da un'uscita negativa in Oriente e questa negatività è continuata a Wall Street. L'indice Dow Jones ha chiuso con una caduta dell'1,06% a quota 12.502. Restiamo pur sempre in un territorio alquanto soddisfacente. Non siamo alla soglia dei 12.000 che qualche settimana fa si temeva potesse essere sfondata. Hanno fatto peggio l'S&P 500, meno 1,6%, il Nasdaq meno 1,95%, quasi il 2%. Sono andati molto male i titoli bancari, e anche Hewlett Packard, Intel, alcune delle tecnologiche, meno 4,05, meno 3,29, però Bank of America ha fatto meno 4,28%, Citigroup il 4,43%, sempre negativo a quota 26,75 dollari, Morgan Stanley ha perso addirittura il 4,67%, Goldman Sachs il 2,57%, Wells Fargo ha tenuto 1,78%. Wells Fargo non era stata inclusa nel downgrading della settimana scorsa di Moody's delle grandi banche internazionali, tra cui le banche americane. È successo un episodio alquanto interessante, perché venerdì, nel giorno del downgrading, le banche hanno attaccato Moody's, sono andate contro Moody's, un po' come succedeva da noi, dicendo che questa agenzia per la valutazione del credito aveva sbagliato le sue analisi, e la reazione era stata talmente forte che venerdì c'è stato addirittura un rialzo di questi titoli bancari, e dunque sembrava che Moody's avesse preso un granchio e che invece le banche tutto sommato erano in condizioni davvero migliori. Ecco, oggi non è stato così. Quando si cominciano ad avere perdite tra il 4 e il 5%, vicine al 5%, sono guai, perdite in ricaduta naturalmente sull'andamento e sulle preoccupazioni del sistema bancario europeo, soprattutto del sistema bancario spagnolo. Perché Wells Fargo ha tenuto solo l'1,78% in meno? Beh, perché era l'unica fra le grandi banche americane a non essere stata inclusa nel declassamento di Moody's. Be at least arguably good things to do no longer become good things to do. It becomes a world, I wrote this early on, and it's still true, a world in which virtue is vice and prudence is folly, in which doing things that sound virtuous are actually deeply destructive. Paul Krugman, il grande economista americano, premio Nobel, ha pubblicato a maggio un libro, End This Depression Now, chiudete la depressione, finitela con la depressione subito. In questa sua dichiarazione dice una cosa molto particolare, dice, siamo arrivati in una situazione in cui non si stimola abbastanza l'economia, non si fanno abbastanza operazioni per cercare di restituire vigore al sistema bancario, alla domanda, e siamo in una situazione, dice, in cui la virtù diventa un vizio e la prudenza un errore, uno sbaglio. Il riferimento è chiarissimo alla signora Merkel, e c'è un riferimento anche alla Federal Reserve, che secondo Krugman pecca di un eccesso di virtù. Ebbene, Krugman ha scritto ieri un articolo molto interessante sul New York Times, dove scrive regolarmente, in cui si domanda se ci sia stata un'abdicazione di leadership. C'è qualcuno, dice, che sta forse abdicando alle proprie responsabilità, e la sua risposta è sì. Krugman si ispira a un vecchio libro di Charles Kindleberger, che è un grandissimo economista, che scrisse 40 anni fa un classico. Il titolo era Il mondo in depressione tra il 29 e il 39. E Krugman riprende l'idea di questo libro, ma non tanto riferita al 1937. Il 1937 fu l'anno in cui Franklin Delano Roosevelt decise di passare da una politica espansiva a una politica restrittiva e fece così ripiombare il paese in una recessione. Ma c'è stata una prefazione di due economisti, Bradford DeLong e Barry Eichengreen, i quali indicano come l'anno chiave il 1931. Perché? Perché nel 1931, a un certo momento, l'Austria si trovò in gravi difficoltà col suo sistema bancario. Aveva bisogno di aiuto, non c'era bisogno di dare all'Austria molto denaro. Eppure i paesi, tra virgolette, virtuosi, decisero che forse si poteva dare un prestito all'Austria, poi l'Austria si sarebbe arrangiata, ma l'Austria era fortemente indebitata. E dunque, quando questa operazione si concluse, dall'Austria partì poi un contagio psicologico negativo che creò quella cassa di risonanza che ha portato successivamente alla Grande Depressione. Dov'è il parallelo? Il parallelo, dice Krugman, è chiarissimo. Il parallelo è con la Spagna, non tanto con la Grecia, perché secondo lui la Grecia ormai è un caso da dimenticare, ma la Spagna dovrebbe poter ricevere aiuti diretti per le proprie banche. Invece che è successo? I paesi europei, guidati dalla Germania, hanno deciso di dare dei soldi alla Spagna, chiedendo a Madrid di aiutare con quei soldi le proprie banche. Ma il mercato sa benissimo che la Spagna è già in una difficoltà debitoria. Nel momento in cui gli vengono dati questi soldi, altro non si fa se non aggravare la posizione di debito spagnola e di conseguenza delle proprie istituzioni bancarie. Dunque è un'operazione, secondo Krugman, gestita nel modo sbagliato. È un'operazione che dimostra una mancanza di visione, una mancanza di leadership e soprattutto una mancanza di conoscenza della storia. Ecco, il timore è che quando si arriverà a Bruxelles la leadership sarà davvero abdicata. Arizona did not ask for this fight, nor did it seek out the task of having to confront illegal immigration. We cannot forget that we are here today because the federal government has failed the American people regarding immigration policy. Jan Brewer, governatore, anzi governatrice dell'Arizona, che protesta una decisione di ieri della Corte Suprema sull'immigrazione. Ecco, direi che questa notizia, con cui chiudo la trasmissione di oggi, meriterebbe, forse meriterà, una trasmissione a parte, perché la Corte Suprema ha deciso di esaminare la questione dell'Arizona e di questa legge durissima contro gli immigrati illegali che potevano essere fermati in qualunque momento, potevano essere arrestati se non avevano documenti con loro, potevano essere deportati così, senza alcuna apparente ragione. Il caso dell'Arizona è diventato un caso nazionale, altri stati hanno imitato l'Arizona, l'amministrazione Obama ha deciso di portare il caso alla Corte Suprema e c'è stata la sentenza. Una sentenza che elimina 3 di 4 aspetti della legge dell'Arizona, e cioè il fatto che gli immigrati illegali non possono cercare lavoro, il fatto che una persona senza documenti può essere arrestata e mantenuta in arresto a tempo indeterminato, il fatto che le persone devono avere sempre con loro i documenti. Dunque c'è stata una moderazione di questa legge, però resta il principio che consente alle forze dell'ordine, nel momento in cui fermano qualcuno, magari perché è passato col rosso, di chiedergli i suoi documenti di immigrazione. Questo resta, ma nel conflitto tradizionale tra autorità federali e autorità statali, direi che la Corte Suprema ieri ha messo uno stop. È un argomento che interessa molto anche noi, perché noi in Italia e in Europa abbiamo immigrati illegali, non sappiamo spesso come comportarci, come imporre il rispetto di alcune leggi da una parte, ma dall'altra come esprimere anche una certa indulgenza per persone magari disperate che cercano un lavoro. La questione, vi dicevo, è interessante, ma soprattutto entra a gamba tesa nella corsa elettorale. Barack Obama è riuscito a fare dei passi in avanti piuttosto importanti la settimana scorsa con una decisione, quella cioè di far sì che i giovani immigranti, i figli di coloro che sono arrivati da immigrati illegali negli Stati Uniti, dunque bambini di 2, 3, 5 anni, che poi da bambini sono andati alle scuole americane, sono cresciuti in America, hanno avuto una loro vita americana e che però non hanno ancora le carte in regola, non potranno essere deportati. Anzi, nel momento in cui soddisfano alcune condizioni, potranno addirittura ricevere il permesso di soggiorno. Questa decisione di Obama riguarda, pensate, 800.000 persone che oggi si trovano in questa situazione. La decisione di Obama è stata criticata ovviamente da Romney, il quale però si trova in difficoltà, si trova un po' indietro, sta cercando di recuperare il terreno col voto ispanoamericano, quindi anche lui poi ha detto: ma io poi annuncerò delle misure che contribuiranno a rendere la situazione più chiara. Sì, è vero, però nel frattempo Obama si trova molto in avanti col voto ispanoamericano. Pensate, il 30% di vantaggio in Florida tra il voto latinoamericano, addirittura il 60% in Nevada.